Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge Nemici, una storia d'amore, di Isaac Singer, traduzione di Bruno Dera. Passi e voci si udirono dietro la porta che dava sull'ingresso della cucina. Reb Abraham Nissen entrò, seguito dalla moglie Shiva Hadass, e si rivolse a Herman. «Probabilmente non avete ancora un appartamento. Potete restare con noi finché non l'avrete trovato. L'ospitalità è un atto di carità, e del resto siamo parenti, come dice il Libro Santo, e tu non celerai te stesso alla tua carne». Tamara lo interruppe. «Zio ha un'altra moglie». Beh, allora è un altro paio di maniche. Reb Abraham Nissen sembrava confuso. Un testimone oculare mi assicurò di aver veduto come essi fossero stati... Herman a un tratto tacque. Aveva dimenticato di pregare Tamara di non dire loro che sua moglie era una gentile. Si voltò a guardare Tamara e scosse la testa. Lo prese l'impulso infantile di uscire dalla stanza prima di essere svergognato. Andò verso la porta, quasi senza rendersene conto. «Non scappare!» «Non ti costringerò a fare nulla», disse Tamara. «Davvero, questa è una di quelle situazioni delle quali si legge soltanto nei giornali», osservò Shiva Hadass. «Tu non hai, Dio ne scampi, commesso alcun peccato», disse Abraham Nissen. «Se fossi stato a conoscenza del fatto che Tamara era viva, allora avresti vissuto illegalmente con una donna, ma in questo caso il divieto non si applica a te. Una cosa è certa». Dovrai divorziare dalla moglie attuale. Perché non ce l'hai detto? Non volevo turbarvi. Herman fece un cenno a Tamara, questa volta portandosi l'indice alle labbra. Reb Abraham Nissen si stava lisciando la barba. Gli occhi di Shiva Hadass esprimevano una sofferenza materna. Il capo di lei, coperto dalla cuffietta, annuiva in segno di sottomissione all'antica prerogativa dell'infedeltà maschile, alla passione per nuovi amplessi, su cui anche il nuovo poveretto non sa resistere. È sempre stato così, e così continuerà ad essere, ella sembrava pensare. «Questi sono problemi che marito e moglie devono discutere da soli», ella disse. «Nel frattempo vi preparerò qualcosa da mangiare», e si voltò verso la porta. «Ho appena mangiato, grazie», si affrettò a dire Herman. «Sua moglie è una brava cuoca. Gli avrà senza dubbio preparato qualche minestra piena d'unto per il pranzo». Tamara fece una smorfia di derisione, come è talora abitudine degli ebrei ortodossi allorché nominano il maiale. «Un bicchiere di tè con un dolcetto?» domandò Shiva Hadass. «No, no, niente, davvero». «Forse dovreste passare nell'altra stanza e parlarne», disse Reb Abraham Nissen. «Come si suol dire, sono questioni da risolvere soltanto tra lui e lei. Se potrò esservi utile, lo farò senz'altro». Cambiando tono, il vecchio continuò. «Questa è un'epoca di caos morale. I colpevoli sono i perfidi assassini. Non attribuite la colpa a voi stessi, non c'è stata scelta». «Zio, nemmeno tra gli ebrei mancano i malvagi. Lo sai chi ci trascinò su quel pascolo? La polizia ebrea. Prima dell'alba, sfondarono tutte le porte, frugarono nelle cantine, nelle soffitte, se trovavano persone nascoste le percuotevano con manganelli di gomma, ci rinchiusero dentro un recinto fatto di corde come se fossimo bestiame destinato al macello. Io osai dire una parola a uno di loro ed egli mi sferrò un calcio così forte che non l'ho più dimenticato, né mai lo dimenticherò. Non sapevano gli stupidi che anch'essi non sarebbero stati risparmiati». «Come dice il proverbio, l'ignoranza è la radice di ogni male», disse il vecchio. «La GPU in Russia non era migliore dei nazisti». «Beh, il profeta Isaia disse, e l'uomo viene piegato e l'uomo viene umiliato. Quando la gente smette di credere nel Creatore, l'anarchia predomina». «Così è fatto il genere umano», mormorò Herman, come se stesse parlando tra sé e sé. «La Torah dice, poiché l'immaginazione del cuore umano è perfida sin dalla gioventù. Ma proprio per questo esiste la Torah, Sì, andatevene là dentro e parlatene insieme. Reb Abraham Nissen aprì la porta di una camera da letto. C'erano due letti, coperti con trapunte europee e disposti nel senso della lunghezza, testiera contro testiera, come nella cara patria. Tamara fece una spallucciata ed entrò per prima. Herman la seguì. Quella stanza gli ricordava le camere nuziali, ove anni prima spose e sposi venivano accompagnati la notte delle nozze. Fuori continuava lo strepito della fretta di New York, ma lì, dietro le mezze tende, sopravviveva una parte di Neuanches o di Cisca. Tutto ricreava l'immagine di anni trascorsi. Il giallo stinto delle pareti, l'alto soffitto, il pavimento di assi, persino lo stile dei cassettoni e il rivestimento della poltrona. Un bravo regista teatrale non avrebbe potuto scegliere un ambiente più adatto, pensò Herman. Gli giunse alle narici l'odore del tabacco da fiuto. Si lasciò cadere sulla poltrona e Tamara sedette sulla sponda del letto. Non hai bisogno di dirmelo, ma se mi credevi morto, allora devi aver senza dubbio fatto con altri. Non riuscì a continuare, aveva di nuovo la camicia zuppa di sudore. Tamara lo osservava con un'espressione scaltra. Vuoi sapere? Tutto in una volta? Puoi fare a meno di dirmelo, ma io sono stato schietto con te. E merito? Potevi forse fare altrimenti? Dovevi dirmi la verità. In base alla legge, io sono tua moglie, e questo significa che sei bigamo. Sono severi in queste faccende in America. Comunque io possa essermi comportata, voglio che tu sappia una cosa. L'amore non è uno spasso per me. Non ho detto che fosse uno spasso. Facesti del nostro matrimonio una caricatura. Io venni a te come una fanciulla innocente e basta! Il fatto è che per quanto soffrissimo, senza mai sapere se avremmo vissuto ancora per un giorno o anche soltanto per un'altra ora, avevamo bisogno d'amore. Anelavamo all'amore, più di quando la situazione era normale. La gente giaceva nelle cantine, nelle soffitte, affamata, sudicia, ma si baciava, si teneva per mano. Non avrei mai supposto che la gente potesse essere tanto appassionata in circostanze simili. Per te io ero meno di niente, ma gli uomini mi divoravano con gli occhi, che Dio m'aiuti. I miei figli erano stati assassinati e gli uomini volevano che io avessi relazioni con loro. Mi offrivano una pagnotta, un po' di grasso, qualche privilegio sul lavoro, non credere che si trattasse di piccole cose. Una crosta di pane era un sogno. Poche patate rappresentavano una fortuna. Nei campi di concentramento si svolgevano continuamente trattative. Gli affari venivano conclusi a pochi passi dalla camera gas. Complessivamente le mercanzie avrebbero potuto trovarsi dentro una scarpa, eppure soltanto in quel modo individui disperati potevano salvare la pelle. Begli uomini, più giovani di me, mariti di donne affascinanti, mi correvano dietro e mi promettevano la luna. Non pensavo affatto che tu potessi essere ancora vivo, ma anche se lo fossi stato, non ti dovevo alcuna lealtà. All'opposto, volevo dimenticarti. Ma volere è un conto, ed esserne capaci è tutt'altra cosa. Io devo amare un uomo, altrimenti il sesso mi disgusta. Invidiavo le donne per le quali l'amore è un gioco. D'altro canto, che cos'è mai, in fin dei conti, se non un gioco? Ma c'è qualcosa in me, il maledetto sangue delle mie ave timorose di Dio, che mi bloccava. Dicevo a me stessa di essere una dannata stupida, ma quando un uomo mi toccava non potevo fare a meno di indietreggiare. Mi credevano pazza e avevano ragione. Mi davano dell'ipocrita. Gli uomini diventavano violenti. Una persona stimatissima tentò di violentarmi. Mentre accadeva tutto questo, i miei compagni nel campo si accingevano a combinarmi un matrimonio. Dicevano tutti la stessa cosa. Sei giovane, devi sposarti. Ma fosti tu a risposarti, non io. Di una cosa sono certa. Il Dio misericordioso nel quale credevamo non esiste. Dunque, non ci fu nessuno? Si direbbe che tu sia deluso. No, non andai a letto con nessuno. E non andrò mai a letto più con nessuno. Voglio rimanere pura dinanzi alle anime dei miei figli. Mi sembrava di averti sentito dire che Dio non esiste. Se Dio ha potuto contemplare tutto questo orrore e tacere, allora non è Dio. Ho parlato con ebrei devoti, persino con rabbini. C'era un giovane nel nostro campo di concentramento. Era stato un rabbino, un uomo infinitamente pio. Non ne sono rimasti come lui. Doveva lavorare nella foresta, sebbene non ne avesse la forza. Quei comunisti sapevano benissimo che le fatiche di lui non rendevano niente, ma torturare un rabbino era considerato una buona azione. Ogni sabato lui non accettava la sua razione di pane, a causa della legge che vieta di portare qualsiasi cosa il sabato. Sua madre, la moglie del vecchio rabbino, era una santa donna. Soltanto Dio in cielo sa come ella consolasse gli altri e come si privasse anche delle ultime cose rimastele per aiutarli. Divenne cieca a causa delle condizioni di vita di quel campo, ma conosceva memoria tutte le preghiere e le recitò fino all'ultimo momento. Una volta domandai al figlio: come può Dio consentire simili tragedie? Lui cercò di spiegare la cosa con ogni sorta di pretesti. Noi non sappiamo quali sono le vie del Signore e tutto il resto. Non stetti a discutere, ma mi sentì di amare maggiore. Gli dissi dei nostri figli, diventò pallido come il gesso e parve vergognarsi, come se la responsabilità fosse stata sua, e infine disse: ti supplico, non parlarne più. Sì, sì, sì, disse Herman. Non mi fai nemmeno domande sui bambini. Herman aspettò un intero minuto. Che cosa c'è da domandare? No, no, non domandarmi niente. Sapevo che esistono persone di animo grande tra gli adulti, ma che i fanciulli, i bambini, possono arrivare alla grandezza, non l'avrei mai creduto. Loro pervennero alla grandezza da un giorno all'altro. Cercavo di dargli il pane delle mie razioni, ma si rifiutavano di toccare anche soltanto un briciolo di quello che spettava a me. Andarono incontro alla morte come santi. Le anime esistono. È Dio a non esistere. Non cercare di contraddirmi. Questa è la mia convinzione. Voglio che tu lo sappia. David e Jochebed, i nostri piccoli, vengono a me. Non nei sogni, ma quando sono desta. Naturalmente tu mi crederai pazza. Ma questo non mi preoccupa minimamente. Che cosa ti dicono? Oh, varie cose. Laddove si trovano sono di nuovo bambini. Che cosa vuoi fare? Divorziare da me? No. Allora come vorrei andarti? Venire ad abitare con tua moglie? Beh, in primo luogo devi trovarti un appartamento. Sì. Qui non posso restare. «Bene, l'impossibile è possibile», si disse Herman. «È accaduto davvero!» Percorreva la 14ª strada bofonchiando. Aveva lasciato Tamara nella casa dello zio e si stava recando da Masha, dopo averle telefonato da un ristorante della East Broadway per dirle che era saltato fuori un suo lontano parente di Civca. Sardonico aveva dato a quel parente un nome, Feivel Lemberger, descrivendolo come uno studioso del Talmud, un uomo sulla sessantina. «Sei sicuro che non si tratti di Eva Krakower, ex amichetta tua negli anni 30?» era stata la domanda di Masha. «Se vuoi, te lo presenterò», aveva risposto. Ora si fermò in un bar farmacia per telefonare a Jadwiga. Tutte le cabine telefoniche erano occupate e dovette aspettare. A essere così sbalorditivo non era tanto l'evento in sé, quanto il fatto che, in tutte le sue fantasticherie e immaginazioni, la possibilità della salvezza di Tamara non gli era mai passata per la mente. Forse anche i suoi figli sarebbero risuscitati dalla morte. La pergamena della vita si sarebbe riarrotolata per far ricominciare tutto quello che era esistito un tempo, fino a quando le potenze ultraterrene volevano trastullarsi con lui. Senza dubbio avevano altro in serbo. Non erano forse riuscite a creare un Hitler e uno Stalin? Si poteva far conto sulla loro ingegnosità. Dopo 10 minuti le 5 cabine telefoniche continuavano a essere occupate. Un uomo gesticolava, parlando, come se il suo interlocutore, dall'altro capo del filo, potesse vederlo. Un altro muoveva le labbra in un monologo ininterrotto. Un terzo parlava e fumava, preparando gli spiccioli che gli sarebbero serviti per proseguire la conversazione. Una ragazza li vedeva e seguitava a guardarsi le unghie rosse della mano sinistra, come se il dialogo col suo interlocutore avesse riguardato proprio quelle unghie, la loro forma e il loro colore. Ognuno di coloro che parlavano, a quanto pareva, era coinvolto in una situazione la quale richiedeva spiegazioni, scuse, sotterfugi. Le facce esprimevano inganno, curiosità, preoccupazione. Infine una cabina si rese libera ed Herman vi entrò, respirando l'odore e il calore di un altro uomo. Formò il numero e Jadwiga rispose immediatamente, come se fosse rimasta in attesa accanto all'apparecchio. «Jadwiga, tesoro, sono io!» «Ah, sì!» «Come stai?» «Da dove telefoni?» «Da Baltimora!» Jadwiga tacque per un secondo. «Dove si trova?» «Beh, vabbè, non fa niente, non ha importanza!» «A qualche centinaio di chilometri da New York. Mi senti bene?» «Sì, benissimo. Sto cercando di vendere libri. La gente li compra?» «È un lavoro duro, ma li comprano. Sono i libri a pagarci l'affitto. Come hai passato la giornata?» «Oh, ho fatto il bucato. Si insudicia tutto qui», rispose Jadwiga, senza rendersi conto che diceva sempre le stesse cose. «Le lavanderie qui riducono a pezzi la biancheria. Come stanno gli uccelli?» «Non fanno che chiacchierare, stanno insieme tutto il giorno e si baciano.» «Fortunate creature!» «Passerò la notte qui, a Baltimora. Domani andrò a Washington, che è ancora più lontana, ma ti parlerò per telefono. Il telefono non si cura delle distanze. L'elettricità porta la voce alla velocità di 300.000 chilometri al secondo», disse Herman, senza sapere perché le stesse dando questa informazione. Forse voleva farle capire quanto era lontano, affinché lei non si aspettasse di vederlo tornare presto. Udiva il ciangottare dei pappagallini. «È venuto qualcuno a trovarti? Una delle vicine, voglio dire?» domandò. «No, ma il campanello ha suonato. Ho aperto la porta lasciando la catena. E c'era là un uomo con una macchina che succhia la polvere. Voleva farmi vedere come funziona, ma ho detto che non potevo lasciare entrare nessuno senza di te. Hai fatto bene. Forse era un commesso viaggiatore, ma sarebbe anche potuto essere un ladro o un assassino. Non l'ho lasciato entrare. Che cosa farai questa sera?» «Oh, laverò i piatti. Poi devo stirarti le camicie. Possono fare a meno di essere stirate. Quando telefonerai?» «Domani.» «Dove cenerai?» «Filadelfia, cioè Baltimora, è piena di ristoranti. Non mangiare carne, ti rovinerai lo stomaco. Tutto già rovinato in ogni caso. Va a letto presto.» «Sì, ti amo.» «Quando tornerai a casa?» «Non prima di dopodomani.» «Vieni presto, mi sento sola senza di te.» «Anche tu mi manchi. Ti porterò un regalo.» Ed Herman riattaccò. «Un'anima buona», si disse. «Come può sopravvivere tanta bontà in questo mondo corrotto? È un mistero. A meno che non si creda nella metempsicosi.» Ricordò l'insinuazione di Masha, secondo la quale anche Jadwiga avrebbe potuto avere un amante. «Non è vero», pensò Herman, adirandosi. «È la sincerità in persona.» Ciò nonostante si consentì di immaginare un polacco in piedi accanto a Jadwiga mentre lei parlava con lui al telefono. Il polacco ricorreva agli stessi trucchi che erano così familiari a lui, Herman. «Beh, non si può essere sicuri che di una cosa sola, la morte.» Pensò a Rabbi Lampert. Se non avesse consegnato quel giorno stesso il capitolo promessogli, il rabbino avrebbe potuto licenziarlo una volta per tutte. Si avvicinava di nuovo la scadenza degli affitti nel Bronx e a Brooklyn. «Fuggirò, fuggirò! Ecco, è troppo! Ecco tutto, sarà la mia fine.» Quando giunse davanti a una stazione, discese i gradini della sotterranea. Che caldo, che umidità! Giovani negri correvano frettolosi, urlando in toni tanto africani quanto newyorkesi. Donne, i cui vestiti erano bagnati sotto le ascelle, si urtavano a vicenda con i loro pacchi e le borsette, gli occhi scintillanti di rabbia. Sul marciapiede una fitta folla stava aspettando e i corpi premevano gli uni contro gli altri. Il treno entrò nella stazione con un fischio stridulo, come se avesse voluto saettar via oltre il marciapiede i vagoni già gremiti. La folla sul marciapiedi si lanciò verso le portiere che si aprivano, senza dare il tempo ai passeggeri sul convoglio di scendere. Una forza irresistibile sospinse Herman nel vagone. Fianchi, seni, gomiti premevano contro di lui. Lì, almeno, l'illusione del libero arbitrio svaniva. Lì l'uomo veniva sbalestrato qua e là come un ciotolo o come una meteora nello spazio. Herman rimase in piedi, intrappolato con la traversetta. Invidiò gli uomini alti di statura, quelli che arrivavano al 1,80 m, perché riuscivano a respirare qualche boccata dell'aria smossa dai ventilatori. Non aveva fatto tanto caldo nemmeno in estate nel fienile. Gli ebrei dovevano essere pigiati in quel modo sui carri merci che li portavano verso le camere a gas. Chiuse gli occhi. Che cosa avrebbe dovuto fare adesso? Da dove avrebbe dovuto cominciare? Tamara, quasi certamente, era arrivata senza soldi. Avrebbe ottenuto qualche aiuto finanziario dal comitato misto della distribuzione, se fosse riuscita a nascondere il fatto che era maritata, ma aveva già detto di non essere affatto intenzionata a ingannare i filantropi americani, e adesso lui era bigamo e per giunta aveva un amante. Se fosse stato scoperto, avrebbero potuto arrestarlo e mandarlo in Polonia. «Devo parlare con un avvocato, devo andare immediatamente da un avvocato». Ma come gli avrebbe potuto spiegare una situazione simile? Gli avvocati americani avevano soluzioni semplici per ogni cosa. Quale delle due ama? Divorzi da quell'altra. Ponga termine alla relazione. Si trovi un impiego. Vada da uno psicanalista. Herman immaginò il giudice condannarlo, puntandogli contro l'indice. Lei ha abusato dell'ospitalità americana. Voglio possederle tutte e tre. Questa è la vergognosa verità, ammise con se stesso. Tamara è diventata più graziosa, più calma, più interessante. È passata attraverso un inferno ancor peggiore di quello di Masha. Divorziare da lei avrebbe voluto dire gettarla nelle braccia di altri uomini, e quando si trattava di amore, quei professionisti pronunciavano la parola come se essa si fosse prestata a un'interpretazione chiara, mentre nessuno ne aveva ancora scoperto il vero significato.